La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono 16:31, primi 34 secondi in questo giovedì 10 di marzo, era ed è il giorno di San Mario Draghi, anche se il calendario porta San Macario, però era atteso da settimane, anzi da mesi. Oggi la decisione assunta dopo le delusioni di dicembre, quando i mercati e i governi si aspettavano di più, dalla BCE a fronte dei risultati totalmente insoddisfacenti, bisogna dirlo, di un anno di cui rafforzato il quantitative easing di acquisto sui mercati secondari da parte della BCE di tassi bassissimi, e Draghi aveva fatto capire che bisognava reagire ai dati che appunto dimostrano che altro che avvicinamento al 2% di inflazione, altro che ripresa massiccia dei crediti all'economia reale. E oggi è stato appunto il giorno, nel senso che la conferenza stampa è finita a illustrazione delle decisioni assunte dalla BCE 40 minuti fa. Io purtroppo ho vinto una scommessa con il mio piccolo Facebook che mi segue, perché avevo la netta impressione che i mercati si aspettassero tanta di quella impossibile roba che sarebbe durato non troppo l'entusiasmo dei mercati. Così è stato, nel senso che nel corso della conferenza stampa stessa del presidente della BCE Mario Draghi, i mercati che erano schizzati verso l'alto, il cambio sul dollaro che era schizzato verso il basso dell'euro, tutto si è attenuato, l'euro addirittura ha iniziato a guadagnare sul dollaro rispetto a prima, il guadagno sui mercati si è molto molto attenuato, e rimane sì un significativo andamento migliore per i bancari. Cerchiamo di fare un primo esame ragionevole al di là di quello che si aspettano sui mercati. I mercati vogliono più metadone, cioè poco da fare, non gli basterà nulla, perché vogliono premere sulle banche centrali per avere misure sempre più non ortodosse. Però cerchiamo di capire, senza esagerare in tecnicismi, che cosa bisogna aspettarsi dalle decisioni che sono assunte oggi. Io allora faccio una brevissima introduzione, semplicemente per richiamare le decisioni più significative in sintesi assunte oggi dalla BCE, dopodiché vi presento i nostri due ospiti, che sono entrambi docenti universitari, quindi hanno molti più titoli di me. Io non mi nascondo dietro le mie opinioni, però come sempre le mie opinioni sono un po' critiche, perché io penso che a furia di dare droga e metadone si smarriscono alcune cose fondamentali. Comunque, io non credo che la politica monetaria possa sostituirsi a quella dei governi. A furia di vedere governi che non intervengono incisivamente sulla produttività e non solo sul deficit e debito, io credo che affidiamo alla politica monetaria dei compiti pressoché impossibili, tenuto presente che oltretutto questa il tragitto degli effetti che possono avere tassi negativi e acquisti sui mercati non ha grandi serie storiche su cui poter fare affidamento per poter calcolare ex ante risultati, come si vede esattamente da questo anno dei risultati non troppo soddisfacenti della BCE. Detto questo, avercene di Mario Draghi, perché se la politica mantenesse un decimo delle promesse che mantiene Mario Draghi e la sua BCE, non avremmo bisogno appunto di chiedere alla BCE cose quasi praticamente impossibili. Che cosa ha deciso oggi, in sintesi estrema, la Banca Centrale Europea? Ha stupito positivamente, prima decisione, anche le più rose aspettative, perché il ritmo degli acquisti mensili sui mercati secondari da parte della BCE passa da 60 miliardi di euro al mese a 80 miliardi di euro. Tutti si aspettavano 70, i più ottimisti sono stati accontentati. Quindi da questo punto di vista, bene. Non c'è una data precisa di protrazione degli programmi di acquisti. A oggi siamo al primo trimestre 2017. Draghi ha fatto capire che comunque si continuerà a reagire man mano che i dati saranno soddisfacenti o meno, ma per il momento fino al 2017 si va avanti così. Dopodiché ha ritoccato al ribasso tutti e tre i tassi di più importanti su cui decide la BCE, sia quello di riferimento, come si suol dire, che era lo 0,05% e passa a 0, tasso di riferimento sui mercati, il tasso che era già negativo, quello sui depositi delle banche presso la BCE, è stato ulteriormente abbassato da meno 0,3 a meno 0,5 4. Su questo c'era un grande dibattito, perché le banche lamentano giustamente che gli effetti sono quelli di uccidere ulteriormente il margine di intermediazione delle banche, e i momenti in cui le banche hanno bisogno di essere sostenute perché non riescono a fare utili e sono corte di capitale rispetto a quello che gli si chiede. Quelle italiane poi sono cortissime di capitale perché sono piene di sofferenze. E ha anche abbassato quello che è il terzo tipo di tasso, quello per i prestiti overnight alle banche da parte della BCE, tagliandolo di 0,5. Quello che conta è che il tasso negativo di passato da meno 0,3 a meno 0,4 ha un effetto però, per così dire, di ribilanciamento, che in qualche modo viene incontro alla richiesta delle banche. Le banche si aspettavano che o che la BCE non abbassasse ulteriormente il tasso negativo, per la ragione che vi ho detto, o che facesse eccezioni rispetto all'eccesso di riserve. Draghi ha spiegato tecnicamente troppo complicato quello che alcune banche ci hanno chiesto, alcuni anche banchieri del sistema europeo, delle banche centrali, tra cui l'Italia, credo, e quindi hanno adottato un'altra decisione per tentare di non uccidere troppo il margine di intermediazione delle banche. E qui sorpresa perché la BCE ha deciso di procedere a 4 ulteriori aste di liquidità, quelle che si chiamano in gergo TLTRO, finalizzate questa volta in maniera vincolata al fatto che quei soldi devono andare davvero all'economia reale, cioè alle famiglie e alle imprese. E sorpresa, per la prima volta la BCE è disposta a dare soldi alle banche per questo fine a tassi negativi, fino a negativi come appunto quelli per il deposito della banca stessa in BCE, cioè meno 0,4%. Molto singolare, no? Che la BCE finisca per stampare moneta per sostenere il credito, in altre parole. Il piccolo particolare è che però lo fa solo con le banche che possono fare credito aggiuntivo e che quindi hanno buoni clienti, e da questo punto di vista quindi si frammenterà ulteriormente il sistema bancario europeo, perché a questo tipo di aste di liquidità a tasso negativo sarà tanto più negativo il tasso quanto più soldi prendono, però possono accedere solo quelle banche che hanno capitale, sanno bene, cioè hanno capitale aggiuntivo per fare nuovi impieghi e che hanno clienti solventi. E l'effetto quindi, per uno che la pensa come me, io mi gratto la testa e dico ma questa è una manipolazione all'interno del sistema del credito, però è una decisione nuova anche questa. Dopodiché agli acquisti sono ammessi da questo mese di marzo non quello che si aspettavano i tifosi dello Stato, cioè o i tifosi delle banche, cioè non c'è ovviamente nella monetizzazione diretta l'emissione di titoli del debito pubblico, non ci sono gli acquisti di non performing loans delle banche, l'Italia su questo è convinta invece di poterseli aspettare, ma si estendono gli acquisti alle emissioni di imprese non finanziarie, cioè di aziende, però anche in questo caso a quelle che sono hanno i titoli, cioè le obbligazioni investment grade, cioè che sono le meglio solventi di tutte, e quindi si abbatterà ulteriormente il rendimento. I risparmiatori stavano concentrandosi su questa classe di asset finanziari che aveva un rendimento maggiore nel pianto generale dei rendimenti delle obbligazioni in un mondo di tassi negativi. Con questo intervento, secondo me, i risparmiatori perderanno dei punti base di rendimento delle loro obbligazioni. Perché lo fa la banca centrale? Per creare liquidità aggiuntiva in quelle imprese per sostenere acquisto di titoli del debito pubblico, visto che le banche anche in questo gli si fa capire che stanno cedendo in paesi come l'Italia. Però la maniera è un po' tortuosa, per così dire. Ecco, quindi acquisti mensili che aumentano molto, fino a 80 miliardi. Nuovi titoli ammessi agli acquisti, i bond delle imprese non bancarie, che però devono avere investment grade, quindi imprese solide. In più il tasso di interesse negativo che scende da meno 0,3 a meno 0,4 e asse di liquidità a tasse di interesse negativi per quelle banche molto sane che possono fare impieghi aggiuntivi. Di fronte a questo, fine della mia sintesi, il mercato è esploso nei primi minuti e si è praticamente azzerato i margini, anzi l'euro si sta salendo sul dollaro prima ancora che Draghi avesse finito. Allora, questa la sintesi e alcune delle mie infondate saranno critiche, però io voglio sentire l'opinione dei nostri due ospiti. Allora, abbiamo con noi il professor Tommaso Monacelli, che insegna macroeconomia all'Università Bocconi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. E Enrico Colombato, che insegna politica economica all'Università di Torino. Grazie professore di essere con noi. Buongiorno a voi tutti. Cominciamo con Monacelli. Lei che impressione ha? C'è qualche sorpresa che ha avuto? Che cosa pensa? Che in realtà questi interventi sono una tappa verso altre cose, oppure i mercati in qualche misura hanno ragione a essere delusi? Ma guardi, farò due considerazioni, una più generale e una più specifica. La più generale è questa: la situazione mi pare molto simile a la situazione di qualcuno che, supponete di essere al balcone di casa vostra e di vedere che c'è un incendio nel palazzo di fronte e vedete accorrere sempre più pompieri, sempre più camion dei pompieri. Vi preoccupate o siete più rassicurati? Cioè vi preoccupate perché magari questo vuol dire che l'incendio, che voi non potete vedere bene, è veramente grave, oppure vi rassicurate perché se arrivano tanti pompieri vuol dire che... Io da umilissimo ascoltatore le direi che se capitasse a me mi preoccuperei. Ecco, è un po' così quello che sta succedendo con le banche centrali, con tutte queste ulteriori misure, perché da un lato Draghi chiaramente punta a rassicurare sul fatto che le aspettative di inflazione non devono cadere, dobbiamo sostenere l'obiettivo di inflazione, perché questo è il grande timore, però ovviamente continuando a intervenire in maniera sempre così più pervasiva con misure ulteriori, dà la misura di quanto eccezionale sia la situazione, di quanto difficile sia il compito che la BCE deve affrontare, e da questo punto di vista forse porta molti anche a preoccuparsi sempre di più, perché come sia lo stato della situazione economica mondiale e il singolo agente economico, dall'impresa al singolo cittadino, fa fatica ad osservarlo nella sua interezza, nella sua incertezza, così come dal balcone si fa fatica a sapere se dentro quell'incendio è veramente grave e veramente devastante. Quindi l'impressione di impatto è questa qua. D'altro lato però devo dire che ci sono degli elementi sorprendenti e secondo me molto potenzialmente efficaci, ne dico uno solo, sì. Cioè, ne dico uno solo e forse non sottolineato abbastanza, ma lei lo diceva, cioè sono le operazioni di rifinanziamento per le banche, sì. In particolare l'aspetto per cui le banche possono accedere a queste operazioni, le TLTRO 2, di rifinanziamento, non tanto solo a tassi bassi e possibilmente anche negativi, ma tanto più quanto più loro stesse danno prestito fuori. Esatto. Ecco. Ora, questa cosa potenzialmente è un'ottima idea. E in quel caso addirittura prendono 100 e ne restano 95, cioè la BCE le paga per fare questo, se loro lo fanno. Benissimo. Esatto. Fino al 30%. Allora, quello che non è chiaro però, almeno l'impatto anche per me, è se le banche potranno, potranno prendere a prezzo della BCE fino al 30% del valore dei loro asset, sì. Quindi dei prestiti che loro hanno in pancia, in bilancio. Non è ben chiaro se questo si riferisce allo stock o al flusso dei prestiti che le banche faranno. Mi spiego, cioè se fosse solo il flusso avrebbe ragione lei, che era un po' critico in precedenza e diceva ma sono solo le banche buone che hanno capitale e possono prestare al di fuori, cioè sul flusso che ne avrebbero un vantaggio di ricevere soldi dalla BCE. Se invece fosse sullo stock, cioè io sono una banca, ho in pancia un sacco di prestiti, possibilmente anche prestiti che vorrei liberarmi, e li posso usare come collaterale per prendere a prestito dalla BCE, questa sarebbe un'ottima cosa. Anzi, io non so se lei ha visto il documento. Dal documento, purtroppo non gli hanno fatto una domanda precisa ai colleghi giornalisti su questo nella conferenza stampa. Dal documento a me pare di no, però ha ragione lei, è aperto, cioè non mi permetto io di dire che... Però dal documento non mi sembra, però effettivamente se fosse come dice lei sarebbe una cosa che anche alle, tra virgolette, più scassate banche italiane sarebbe molto utile, no? Mi sbaglio? Sarebbe molto utile, perché l'idea proprio è, andiamo al succo, il problema è il succo del cuore delle banche, il problema delle banche sono i non performing loans e sono questi attivi di bilancio che non performano. E allora in che modo questi possono essere resi più liquidi e dando la possibilità alle banche europee di poter ottenere finanziamenti contro, usando questi prestiti come collaterale? Se la BCE cominciasse a fare qualcosa, ma forse ha in mente di farlo, cioè forse questo apre la strada a future estensioni di questo programma, in cui la BCE potrebbe dire benissimo, adesso aumento il tetto della percentuale di prestiti che voi avete in pancia, che potete usare come collaterale. Io ho questa seconda impressione. Io ho questa seconda impressione che oggi abbia fatto un passo verso le banche che stanno meglio. Tanto perché lo dico? Perché in una delle ultime domande della conferenza stampa, questo hanno fatto molto caso, e su questo è venuta la botta finale sui mercati. Un collega giornalista gli ha chiesto: ma sentite, presidente, ma voi consiglio su helicopter money, cioè andare proprio alla monetizzazione del debito? È con questo che si chiama l'espressione tecnica che si usa del denaro dall'elicottero. E tutti hanno fatto caso che Draghi non ha risposto, è incompatibile con le regole, col trattato e con lo statuto della BCE. Ha detto: noi non ci siamo ancora posti il problema, che è un po' come dire l'incendio può essere immane, e dall'altra parte però fa capire che possono essere dei passi. Questo anche sulle banche di oggi potrebbe essere un passo, per così dire. Bene, torniamo tra un minuto, perché oggi adesso abbiamo l'informazione, scusate, sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Alcuni ascoltatori in SMS invocano l'intervento, a cui io comunque vi rinvio subito dopo, a Focus Economia e Mercati con Sebastiano Barisoni, che naturalmente anche lui esaminerà le misure della BCE, e che è chiaro, gli ascoltatori che sono più a favore di interventi non ortodossi. Io ne ho un po' diversa, quello di Radio 24 è anche quello di ospitare opinioni diverse, per così dire. Stiamo tentando di capire di questi quattro blocchi di misure assunte oggi dalla BCE che cosa davvero vogliono dire. Siamo in un percorso evolutivo. Tendete conto che a dicembre la BCE diceva ancora che l'inflazione attesa in questo 2016 era più 1%, oggi la previsione è meno 0,1%, capite come 90 giorni fanno la differenza. E anche le previsioni al ribasso della crescita, le stime corrette al ribasso della crescita attesa, danno un orizzonte di crescita triennale che comunque non arriva se non al più 1,7 tra 3 anni. Quindi queste sono le condizioni di gravità di fronte alle quali Draghi ha detto: abbiamo preso delle decisioni, sono queste. Ve le abbiamo dette e stiamo tentando di capire. Professor Colombatto, dal suo punto di vista, queste decisioni che cosa dicono? Sono un'ulteriore tappa per far mettere toppe all'indecisione dei governi? Sono un percorso innovativo verso oceani comunque da percorrere, anche se non abbiamo le carte? Bah, direi che è un colpo di bazooka salve. Ne abbiamo già avuti tanti nel corso degli ultimi anni. Si è visto che non hanno portato a grandi risultati. La crescita è quello che è. Le previsioni vengono ridotte mese dopo mese, chi si è comportato male, banche e non banche, continua ad agonizzare. Insomma, a me pare che tutti questi colpi di bazooka, a mano che passano, sgretolano la credibilità della banca centrale e aggiungono dosi di timore ai mercati, agli investitori, che vedono che tutto sommato ci si agita molto e si combina poco. Del resto non è con la politica monetaria che si inducono gli investitori a creare capacità produttiva, e non è con questi colpi di bazooka che si incoraggiano i consumatori a spendere. In fin dei conti, uno dopo la giornata di oggi, se aveva dei dubbi sul cosa fare, risparmia ancora di più. Il lato positivo, che al tempo stesso è il lato negativo, è che questo colpo di bazooka di nuovo a salve è in realtà una conferma di una polizza assicurativa verso sistema bancario e, come avete giustamente menzionato prima, verso un gruppo di grandi imprese che hanno accesso ai mercati finanziari a condizioni già buone, perché molte di queste hanno dei rating alti, e gli si dice: beh, guarda, non preoccuparti, perché io, banca centrale, ti compro pure i bond adesso direttamente. Ti compro direttamente i bond, quindi vai tranquillo. Il risultato l'abbiamo visto sui mercati di oggi. I corsi azionari europei sono in rosso, lo Stoxx 600 mi pare che sia in rosso, sì. Però a fronte di queste polizze assicurative a tappeto, cosa è successo? Che molti investitori si sono avventati su titoli, per esempio credo obbligazionari, che sono guardati gli indici, e l'euro ha guadagnato più dell'1% nei confronti del dollaro nella giornata, e verso la fine delle dichiarazioni di Draghi adesso, cioè 2 ore sostanzialmente, ha già guadagnato il 2%. Quindi vuol dire sostanzialmente i mercati si rendono conto che la BCE è la canna del gas, diciamo così, che la fantasia, la finanza e la politica monetaria creativa hanno fiato corto. Aumenta l'incertezza, lo vediamo come volatilità, e aumenta anche una specie di crony capitalism, il capitalismo dei compari, in cui chi è grande e si comporta bene riceve dei soldi, bene nel senso di amichevolmente. Amichevolmente, diciamo, esattamente. Mentre i poveretti che magari non hanno un'impresa che fattura 2 miliardi di euro, ma hanno una piccola impresa che fattura qualche milione di euro, o forse anche meno, quelli li lasciamo fallire, li lasciamo andare a rotoli. Come è giusto che sia, peraltro, perché la Banca Centrale Europea, Draghi in particolare, non deve mettersi a manipolare la redditività delle imprese. Il mondo è già abbastanza complicato così e non abbiamo bisogno di qualcuno che da Francoforte si inventi un mestiere che non sa fare, perché ha fatto tutt'altro. Allora, le due opinioni sono di due accademici che hanno, e non nascondono, opinioni diverse, perché appartengono a scuole diverse. Cioè, il professor Monacelli, che avete sentito prima, è uno di quelli convinto sostenitore, perché un quello segue negli articoli che scrive e così via, cioè che noi siamo davvero in una curva di stagnazione secolare e che quindi abbiamo bisogno di inventarci cose nuove. Ma lo avete sentito, cosa diversa dal dire bene bene a qualunque cosa nuova, cioè bisogna essere cauti, prudenti e capire. Mentre il professor Colombatto appartiene invece a un'opinione diversa e pensa che siano gli operatori del mercato che debbano essere messi in condizione con politiche meno distorsive possibili di poter trovare le migliori soluzioni. Detto questo, cari ascoltatori, noi vi offriamo le opinioni che ci sono e i mercati stanno reagendo come stanno reagendo. Io continuo a pensare che Mario Draghi in quanto tale è una risorsa. Le difficoltà con le quali deve procedere a inventarsi politiche che hanno effetti asimmetrici, perché le economie sottostanti sono asimmetriche, i mercati del lavoro sono separati e le curve di costo sono diverse in diversi paesi, beh, questa è un'equazione impossibile, perché finché i mercati restano separati, come è ovvio, gli effetti sono asimmetrici delle politiche monetarie uguali per tutti. Detto tutto questo, continuate con Focus Economia. Sebastiano Barisone, appuntamento anche all'8:15 domani mattina con Alessandro Milan e me. Ad attenti a noi due.